noi prevediamo un periodo di prezzi alti, più alti che nel passato, forse non così alti come oggi, però sicuramente più alti che nel passato, cioè la volatilità dei prezzi rimane o aumenterà nel futuro. Questo perché? Perché i fattori che influiscono sui prezzi alimentari faranno sì che i prezzi saranno più alti. Noi abbiamo una crescita della popolazione mondiale, abbiamo una crescita dei redditi che influisce sulla domanda, su un aumento della domanda dei prodotti alimentari, che questo fa pressione sui prezzi. Poi ci sono i mercati di energia, cioè l'agricoltura fornisce una certa parte di energia in forma di biocarburanti, e allora è questa una domanda addizionale aggiunta sulla domanda di cibo dagli esseri umani. Poi il legame tra i prezzi dell'energia e l'agricoltura, i prezzi dei prodotti agricoli, sarà una fonte di instabilità dei prezzi, di volatilità nel futuro, perché i prezzi dei carburanti sono più volatili rispetto a quelli dei mercati alimentari, almeno così era nel passato. Allora, nel futuro saranno prezzi più alti del passato, dei primi anni 2000, e più instabili. Secondo la nostra analisi, sicuramente quella che si chiama speculazione, che è una attività commerciale non basata sullo scambio dei beni, ma su scambio della carta o dei contratti, sicuramente avrà avuto un impatto sui prezzi, sulla volatilità dei prezzi. Però non è la causa principale. Sono fattori reali che hanno un impatto e poi probabilmente quello che si chiama speculazione contribuisce a ampliare questa volatilità. L'impatto dei prezzi alti, anche in periodi che sono di breve duratura, hanno un impatto molto negativo sui più poveri. Perché? Perché i più poveri spendono una grande fetta del loro reddito a mangiare, sui prodotti alimentari. Allora una forte crescita dei prezzi, un forte aumento, infatti contribuisce a ridurre fortemente il loro reddito reale. Che fanno le famiglie per affrontare una tale situazione? Di solito tagliano altre cose, siccome il cibo è una cosa molto fondamentale. Tagliano le spese sull'educazione, sulla formazione dei figli, sulla sanità, sulle spese sanitarie, e vendono i loro beni, e talvolta questo non è sufficiente. Allora vanno a ridurre quello che mangiano, o la qualità e la diversità di quello che mangiano. Quello può sicuramente causare una famiglia di andare da uno stato precario a uno stato di fame. E le misure che i governi e la comunità internazionale possono fare sono in due direzioni. Uno è prevenire, impedire la volatilità dei prezzi e l'andamento dei prezzi verso in su. Sono tre tipi di politica per questo. Uno, creare un ambiente positivo per la crescita dell'agricoltura e la produttività agricola, specialmente quella dei piccoli agricoltori nei paesi in via di sviluppo. E questo ambiente comporta politiche e comporta investimenti in ricerca per l'agricoltura, in infrastrutture per accesso ai mercati, in entranti per l'uso dei piccoli agricoltori, eccetera. La seconda, cercare di evitare misure unilaterali che riguardano lo scambio internazionale del cibo. Evitare, per esempio, impedimenti alle esportazioni, che hanno un impatto molto negativo nei mercati, creano ulteriore incertezza e aumentano la volatilità dei prezzi. E il terzo, avere più trasparenza su tutto quello che succede nei loro paesi, dal punto di vista di produzione, degli stocks che sono disponibili. Così la comunità internazionale, i mercati possono veramente avere i dati reali per poter prendere decisioni. Il secondo gruppo di politiche riguarda la prevenzione dell'impatto della volatilità e dei prezzi alti sui più deboli. E quello sono gli ammortizzatori sociali mirati per i più deboli, per garantire a loro un accesso al cibo e alla nutrizione adeguata. Quelli che producono più di quello che consumano possono trarre benefici dai prezzi più alti. I prezzi più alti costituiscono un incentivo per produrre di più. Però per produrre di più uno deve avere accesso alla terra, accesso agli entranti, accesso ai mercati per poter vendere quello che produce. E se questi fattori sono presenti, allora c'è un aumento dell'offerta, della produzione. C'è un problema quando i prezzi alti vengono insieme con prezzi instabili. Cioè la volatilità dei prezzi crea una incertezza. Per quelli che sentono questa incertezza, non vogliono mettere risorse per investimenti di lungo periodo, perché se non sai che questi prezzi tengono per un certo periodo di tempo, non investi. Allora la volatilità influisce come un fattore negativo all'incentivo di produzione e aumento di produttività.